Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Mozart nell'84 era da pochi anni a Vienna e i primi anni 80 furono per Mozart anni di un vero e proprio trionfo. Era il giovane compositore arrivato da Salisburgo. C'era Haydn, certamente, assolutamente non tolse nulla alla fama di Haydn, ma Haydn era dentro alla corte. Mozart no, era a tutti gli effetti il nuovo che avanzava. E nei primi anni 80 del Settecento Mozart ebbe un successo sia di pubblico ma automaticamente economico assolutamente straordinario. Era realmente quello che oggi sarebbe un milionario. Questo anche perché aveva un tale successo nella Vienna dell'epoca che lui stesso organizzava quelle che si chiamavano le accademie. Erano concerti in sale di circa forse 100-150 posti, dove chi partecipava all'accademia comprava un biglietto e il compositore stesso, era l'impresario di se stesso, tolte tutte le spese degli altri musicisti che partecipavano a questa accademia, a questo concerto, rimaneva in possesso di tutto quello che aveva ricavato. Dalla metà degli anni Ottanta comincia un vero e proprio declino, da un lato economico, anche perché era un giocatore d'azzardo, aveva una vita tutto sommato dissipata. Ecco, però, nell'84 scrive una fantasia, la fantasia in do minore, K475. È un brano diviso in sette parti, per quanto piccole, però sette frazioni estremamente articolate. Però la cosa più rilevante è che, oltre a racchiudere in uno strumento a tastiera dell'epoca, nel 1784 il pianoforte era ancora uno strumento da tavolo, col suono minuscolo, che già dava soddisfazione ai compositori per l'idea di poter creare il forte e il piano, per creare queste differenze sonore. Però era ancora uno strumento estremamente fragile. Scrive un brano dove il contrasto sonoro è della stessa intensità emotiva, per non dire anche di decibel, che troviamo nella patetica di Beethoven, che però è di 15 anni posteriore. L'inizio non è molto diverso da quello della patetica, dove tutto è più conciso. Cosa? I silenzi. A seguito di questi momenti di piano, di pianissimo, sono dei vuoti. Quei vuoti che la patetica rappresenterà estremamente bene, ma che in Mozart sono già dei vuoti quasi da silenzi teatrali. E poi altra cosa, il colore, che per chi non è professionista nella musica è soltanto una possibilità di intuizione, ma se analizziamo lo spartito e ci immaginiamo questo brano eseguito da una grande orchestra, quindi con gli archi, con i fiati, i legni, gli ottoni, l'inizio che è il tutti dell'orchestra. Poi gli archi. A cui rispondono i fiati. Poi questo silenzio lunghissimo. Poi di nuovo il tutti. Fiati. Praticamente attraverso questo inizio Mozart comincia a sperimentare su uno strumento casalingo, quello che saranno le sue ultime opere. Nozze di Figaro, Don Giovanni. Questa prima parte prosegue con una melodia estremamente orchestrale e continua con grandi contrasti sonori. Essendo una fantasia, essendo un brano libero, non si fa problemi di forma, di costruzione, chiude questa prima parte e la allaccia a una seconda parte che è un grande assolo per quello che era lo strumento che in qualche modo aveva affascinato negli ultimi 20 anni Mozart, il clarinetto. Forse a questa altezza possiamo immaginarla più per un oboe che per un clarinetto, ma quando ritorna... Pensata proprio per uno strumento dal registro della viola, un colore caldo con uno strumento che fino a quel momento era considerato uno strumento di puro servizio nell'orchestra. Ecco, con Mozart strumenti come il corno, come il fagotto, come il clarinetto, l'oboe assumono un carattere quasi solistico in alcuni momenti. C'è una terza parte, arriviamo alla fine della parte B. C'è un punto di collegamento che sembra non sappia dove andare. E comincia la terza parte. Questi tremoli sono i tremoli degli archi. Quando c'è un momento drammatico in un'opera, troviamo questi effetti. Quasi a dare un senso di tensione, di dramma, come se ci fosse un intermezzo soltanto di colore per raccontare qualcosa. Poi c'è una quarta parte con una melodia molto fresca, molto brillante. Sono tutte parti brevi, proposte una volta e poi lasciate, quasi come se fossero delle improvvisazioni, ma che vanno a costruire tutto un percorso. Finita questa quarta parte, comincia un piccolo insieme per fiati. Il classico quintetto a fiati è fagotto, corno, oboe, clarinetto e flauto. E qui abbiamo questo impasto sonoro. Veramente di tornare indietro di 30 anni dopo questo inizio così contrastato. Beh, sembra di tornare ai Haydn. Questo è Mozart. Però se ricordate la sonata K282... C'è lo stesso carattere di leggerezza, di semplicità. Ma ecco che dopo questa parte cambia improvvisamente, come se si rannuvolasse tutto improvvisamente. E c'è una delle parti più beethoveniane presenti in Mozart. Della quinta parte, con questa sorta di quintetto di fiati, ecco qua comincia una parte estremamente agitata, con un carattere veramente di Sturm und Drang, quasi delittera. E a questa sesta parte fa seguito una ripresa dell'inizio, una ripresa che porta poi alla coda finale. Questo è come l'inizio. E da qua prende un'altra strada per andare a chiudere. E da lì comincia questo digradare verso la fine. C'è una cosa, questa parte... Esattamente queste stesse note, e non credo sia un caso, le troviamo a più riprese nel primo movimento del terzo concerto di Beethoven, concerto per pianoforte e orchestra. In alcuni momenti tematici del pianoforte, gli archi. Hanno esattamente le stesse note di questa cellula di Mozart. È veramente un qualcosa di cui Beethoven si appropria perché crea un bel colore. Direi che la cosa più rilevante è che questo non è assolutamente un brano che dà l'idea di una cosa improvvisata. Anzi, sembra quasi un grande racconto diviso in sette parti ed è quasi come se Mozart, che appartiene a un periodo dove la musica non raccontava ancora nulla, questo accadrà nel romanticismo, e poi senza nemmeno rendersene conto, Mozart sta facendo diventare quello strumento totalmente imperfetto che è il pianoforte, perché il pianoforte assomiglia più alla marimba che al violino, al flauto o alla voce umana, lo strumento principale. Questo fa parte dell'ultimo periodo mozartiano. Mozart comincia a prendersi involontariamente delle libertà espressive, formali, narrative. Lo fa con un garbo e con un'eleganza che in musica riesce a traghettare il periodo classico di Haydn a Beethoven. Ecco, nell'ultimo periodo di vita, Beethoven scrive tre sonate, l'opera 109, l'opera 110 e l'opera 111, sono state scritte da Beethoven non partendo dall'inizio e arrivando in fondo, ma come tanti appunti senza numero d'opera che Beethoven poi ha smistato, quasi come se fossero un unico solo periodo che in qualche modo Beethoven ha suddiviso in tre sonate. La sonata opera 110 ha veramente qualcosa di straordinario perché è l'unica sonata di Beethoven che non ha dedica. In un'epoca in cui era normale, doveroso, ma anche molto utile, dedicare i propri lavori, anche i più piccoli, fosse anche un piccolo valzer, a qualche nobile, a qualche parente di nobili e via dicendo. Questo per avere poi consenso, per avere anche a volte una forma di soddisfazione economica, se vogliamo, o comunque in ogni caso perché era elegante dedicare un proprio lavoro a qualche personaggio potente. Ecco, figuriamoci se un compositore, soprattutto in quel momento desideroso di guadagni, nel 19-21, Beethoven veniva da una causa familiare pesantissima con la cognata, moglie del proprio fratello, che aveva lasciato un nipote raccomandando a Beethoven di fargli da padre, ma Beethoven assolutamente misogino detestava la cognata e intentò una causa per l'affidamento di questo nipote che non voleva assolutamente stare con Beethoven. Intentò una causa che durò anni per avere un affidamento che non ottenne, ottenne soltanto per un brevissimo periodo, un periodo che per Beethoven fu terribile perché il nipote gli faceva passare di tutti i colori. Ecco, nel 19, nel 21 scrive tutta una serie di lavori, tra le quali queste tre sonate, che dà alle stampe proprio per guadagnare, per avere dei soldi. E la cosa sorprendente è che tutte e due, 109 e 111, dedicate a personaggi estremamente influenti nella vita nobile dell'epoca, la sonata 110 dedicata a una delle figlie Brentano, famiglia nobile viennese, la dedica viene ritirata, dedicherà poi le variazioni su un valzer di Diabelli, l'opera 120, ma l'opera 110 rimarrà senza dedica. E ci si chiede perché. Se andiamo ad analizzare passo passo questa sonata nei suoi tre movimenti, vedremo che c'è quasi una sorta di ricapitolazione di quello che è stato un percorso di vita di Beethoven. È una sonata in tre movimenti. Il primo movimento è sì nella forma sonata, esposizione, sviluppo, ripresa, sempre ammesso che si possa realmente trovare una divisione così precisa come era soltanto vent'anni prima. Non è un tempo allegro, è un moderato molto cantabile, scrive Beethoven. La cosa che comunque notiamo subito è che comincia con un quartetto d'archi. Primo violino, secondo violino, una parte più di ripieno, non ha la melodia, è quasi un sostegno alla melodia, la viola, violoncello. Messe insieme, però andando avanti abbiamo una seconda melodia che è questa. Anche qui abbiamo un quartetto d'archi. Sembra quasi che voglia fare un omaggio a Haydn. Primo e secondo tema, esposti immediatamente vicino, espressi con una scrittura che è quella del quartetto d'archi, che poi è anche la scrittura che usa Mozart nella sonata K282. Mette in melodia un lead che tradotto in italiano si intitola Da quella tomba oscura. Forse non è un caso che usi questa melodia. Veniva da un periodo tetro, perlomeno molto problematico. Aveva un problema pesantissimo, una quasi totale sordità, e poi forse aveva anche un carattere un po' lamentoso, a giudicare da quello che si legge nei quaderni di conversazione. Si lamenta molto spesso con i propri conoscenti, con quelli con cui dialoga, perché non è abbastanza capito, perché altri compositori hanno più fortuna e via dicendo. Ecco, poi di questi simboli il primo movimento della sonata ne è pieno. C'è il tema del destino, quello che sarà nella quinta, che con Beethoven troviamo spesso nella Passionata. Qui lo troviamo in questo passaggio. È quasi nascosto qua sotto, ma se io lo suonassi molto più forte di quello che Beethoven richiede. Poi c'è il secondo movimento, che è uno scherzo. In realtà è uno scherzo a modo suo variato, perché lo scherzo era comunque in tre quarti. Qua addirittura abbiamo una sorta di scherzo che non è neanche più in tre, in quattro. È quasi più una marcia. E anche qui prende una melodia popolare, che è un canto da osteria, ed è Io sono disordinato. E da qui comincia quello che nello scherzo del minuetto sarebbe il trio. C'era la mano destra con queste notine veloci, che però non sarebbero cantabili, oppure l'abbiamo la mano sinistra. Forse un primo esempio di una linea melodica completamente disossata. Non è chiusa dentro un gruppo di note identificabili facilmente, ma sono un gruppo di note che riconosciamo sulla carta. Io credo che siano dei momenti geniali in cui un compositore scrive qualcosa che poi verrà riutilizzato, riapplicato 50, 100 anni dopo. E siamo solo al secondo movimento, perché il terzo movimento è quello più grande, è diviso in 8 parti. La prima parte è un recitativo che sembra quasi andarsi a richiamare da un corale di Bach. Se sentiamo il clima di questo inizio, non è molto differente da quello di Bach del preludio in mi bemolle. Dopo questo recitativo comincia una seconda parte, arioso dolente, però lo scrive meglio in tedesco, tradotto alla lettera diventa il canto del pianto. Thank you. comincia questa melodia e si dipana senza mai ripetersi fino alla fine di questo episodio. Ecco, questa idea di melodia che non si ripete, questa melodia che non trova mai una fine, sembra che si appoggi su qualcosa ma poi da lì riparte, è quello che troveremo in Wagner, nella cosiddetta melodia infinita. Finita questa seconda parte, ne comincia una terza, di per sé splendida, e che è un omaggio a Bach, una fuga a tre voci. Di quel canto del pianto, Beethoven lo riprende scrivendo perdendo le forze. Nella seconda parte la troviamo con una linea che non viene mai interrotta. Qui è una continua frammentazione. Cercato di accentuarle maggiormente per accentuare i vuoti. Poi c'è una quinta parte che è la ripresa della fuga che componeva la terza parte. Rovesciata. Rovesciata cosa vuol dire? Che quando una melodia ha degli intervalli, delle note che salgono oppure scendono, questa sale, poi scende e poi risale. Scende un'altra volta e poi risale ancora. Rovesciata è una nota che scende prima di tutto, poi sale un po', poi riscende, quasi come se fosse uno specchio. E qui Beethoven scrive, e lo scrive proprio in tedesco, a poco riprendendo vita. Poi c'è una sesta parte che è quasi una piccola improvvisazione per certi versi, o comunque la fuga che viene proposta in maniera talmente libera che sembra quasi una libera improvvisazione. E poi a poco diventa sempre più vitale, fino ad arrivare a utilizzare tutta la gamma nell'arpeggio finale delle note che aveva la tastiera di Beethoven all'epoca. Da qui. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica. 3 secoli di creatività musicale. Cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.